e il fronte che da qui arrivava appunto, come si è detto prima, fino all'Africo. Quindi là i partigiani, brigata d'assalto Lanciotto Pallerina, a cui si unisce la brigata del Perseo e alcune sezioni della Senigallia Lavagnini. Qua giù ci sono i nazisti e sono, diciamo, la forza d'élite, sono i paratutisti, non sono diciamo l'esercito quello tradizionale, sono proprio i paratutisti incursori. E appunto la stessa manifattura Tabacchi, dal punto di vista della conformazione urbanistica, si difende, si difende abbastanza bene sostanzialmente. A un certo punto, proprio il 18, la mattina alle 6, un gruppo di partigiani passa da lungo la ferrovia e lungo gli orti, qui ora vabbè, c'è il dopolavoro ferroviario, il circolo e così via, da dietro ed entra dalla parte, rientra dietro la manifattura Tabacchi, non so se qualcuno di voi l'ha visto, dove c'è l'entrata di questa binari che servivano alla manifattura Tabacchi quando veniva fatto appunto i sigari, le sigarette, per immettere subito e stoccarli subito sui vagoni e portarli lungo la ferrovia. Quindi penetrano da dietro e conquistano la manifattura Tabacchi, anche perché in simultanea arrivano svariati gruppi partigiani dalla parte del cassone dei ferrovieri e li sbaragliano. Nei 2 giorni successivi, utilizzando le direttrici ferroviarie, questa qua giù, e poi come vedremo anche quella dalla parte di Viale Corsia, diciamo quella laggiù, tentano a più riprese i nazisti di riprendere le posizioni che avevano perse. Non ci riescono mai. Vengono sempre rimandati indietro e respinti con gravi perdite da parte dei nazisti e perdite significative da parte dei partigiani. Da qui cominciano a scappare. E scappano lungo la direttrice del Mugnone e poi del Tersolle, dividendosi in due parti i nazisti, una parte lungo la parte diciamo di qua del Tersolle e l'altra parte sempre lungo il Tersolle e il Mugnone dalla parte di qua. E quindi vengono rincorsi e tutta la giornata del 18 sostanzialmente è un tentativo da parte dei nazisti di arrestare l'avanzata. E da parte dei partigiani invece di continuare a spingerli sempre più indietro. Va tenuto presente che l'11, quando c'è l'insurrezione di Firenze, questa linea del fronte, da parte diciamo, del comando partigiano, del CLN toscano, viene divisa in 3 settori che partono appunto dall'Arno. Il primo settore è dall'Arno fino a piazza. Al ponte di mezzo sostanzialmente, il secondo settore dal ponte di mezzo a Piazza delle Cure, il terzo settore da Piazza delle Cure fino al Salviatino, cioè la parte proprio in vetta insomma diciamo della cosa. E ogni settore era affidato ad alcune compagnie, brigate particolari e questa qui appunto c'era la Lanciotto che poi dopo fu trasferita dopo la conquista della manifattura Tabacchi nel secondo settore, cioè verso le Cure, la Senigallia Lavagnini e la Persea, a cui poi si aggiunsero altre brigate, ma questo si vede in seguito. Quindi sostanzialmente qui cominciano a buscarne e cominciano a ritirarsi, a retrocedere fino diciamo, a Piazza Dalmazia, che è l'altro punto cruciale diciamo, rispetto alla liberazione di Firenze Nord, cioè qui è Piazza Dalmazia, anche se poi nel frattempo da qui a Piazza Dalmazia ne succede tante insomma. E nel retrocedere i nazisti mettono il loro quartier generale a Villa Carobbi. Se qualcuno ha fatto, io perché ci lavoro alla Coppi Carlo del Prete, comunque se qualcuno è passato di lì in zona vicino a quando c'è anche il tribunale, vicino a quello era Tarzan, lì c'è il Nil Hotel, se vedete sotto c'è scritto, che è la catena, sotto c'è scritto Hotel Villa Carobbi, ecco, il quartier generale dei nazi era laggiù, dei tedeschi, e controllava tutta la zona qui, ma soprattutto con obbrobi continui per tutto il mese di agosto, la zona di Peretola, Petriolo, insomma tutta la zona là che rimase diciamo, sotto la dominazione tedesca fino a che fu liberata la città. Quindi per un mese, mentre sta parte era già libera, laggiù, insomma, dovettero sottostare diciamo, all'angherie nazifasciste. Va bene? Sì.